Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari ascoltatori di Rock FM. È Maurizio Faulisi che stavolta dice buongiorno, lui il nottambulo che è presente sempre alle 23, il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì da Rock FM con i suoi programmi Country Skyline e Good Rocking Tonight. Da quest'oggi si comincia con le pillole del Faulisi che profumano di roots e country e naturalmente tanto buon, sano, vecchio rock and roll. E con questo è che cominciamo quest'oggi, cominciamo con una accoppiata vincente, quella della olandese Su Moreno e del fiorentino italiano Marco Di Maggio, un asso della chitarra riconosciuto a livello internazionale, e insieme se ne sono usciti ultimamente con un CD registrato in coppia, e un CD naturalmente di rock and roll ma che va a toccare anche generi tanto tanto amati dagli appassionati degli anni 50 e 40, ovvero lo swing e certo country. Quindi iniziamo, quest'oggi iniziamo con Rock and Roll Party e Su Moreno e Marco Di Maggio. I just gotta go, wanna go uptown this rock and roll show. Let's go. Let's go crazy. Let's go crazy. We don't know, we don't need much time until we're rocking out of our mind. Gotta find a place where we can hide. Wanna rock with you until you're satisfied. It's us a scream and I will cry. Party, era Su Moreno e Marco Di Maggio insieme per la prima volta, e che goduria ragazzi. Canzoni di Su Moreno e Marco Di Maggio le potrete ascoltare alle 23 lunedì, martedì, giovedì e venerdì, quando vanno in onda appunto in serata da Rock FM le trasmissioni di Maurizio Faulisi, Good Rocking Tonight e Country Skyline. See you later, alligator.